Le fate della roccia di Merlino. 3 secoli e mezzo fa viveva un uomo che lavorava in una fattoria scozzese. L'uomo veniva chiamato Uomo Orra, che significa qualcuno che fa tutti i tipi di strani lavori che il suo padrone gli dà. Una sera il suo padrone mandò l'Uomo Orra alla fine della brughiera per raccogliere tutte le torbe che erano cresciute lì. Ansioso di eseguire gli ordini del suo padrone, l'uomo Orra fece come gli era stato detto, fischiettando mentre lavorava. Alla fine dell'ora, aveva raccolto una notevole quantità di erbe, quando improvvisamente, in piedi davanti a lui, vide la donna più piccola che avesse mai visto. Ti piacerebbe se strappassi via il tetto di casa tua questo autunno? Che cosa? Tu chi sei? Non importa chi sono. Rimetti tutta l'erba esattamente dove l'hai trovata, adesso, e non ci disturbare più. No, no, no. Sì, signora, subito. Lo spaventato uomo Orra fece esattamente ciò che gli era stato detto e rimise tutto dove l'aveva trovato. Quindi andò di corsa dal suo padrone nella fattoria. Signore, non dobbiamo mai più andare in quella parte della brughiera. Cosa vuoi dire? Ci sono fate lì e oggi abbiamo ricevuto un avvertimento da loro. Non dovremo toccare le loro erbe mai più. Stai bene? Che tipo di uomo crede nelle fate? Non osare darmi scuse così terribili per la tua pigrizia. Credetemi, maestro, ne ho incontrata una quando ero lì. Lei era una piccola. Basta così. Sembra che ti sia addormentato e che tu abbia sognato. Ora vai a termine il lavoro che ti ho dato, altrimenti non avrò altra scelta che licenziarti. Capito? Quindi, l'uomo Orra non ebbe altra scelta che tornare alla brughiera e raccogliere di nuovo le erbe. Tremava mentre lo faceva, temendo che la piccola fata potesse tornare a punirlo. Ma non successe niente del genere. Trascorsero settimane, mesi e un intero anno. L'uomo Orra non incontrò più nulla di insolito o di strano. Forse il maestro aveva ragione. Deve essere stato tutto solo un sogno. Che sciocco devo essere sembrato in preda al panico. Finalmente arrivò il giorno in autunno. Esattamente il giorno in cui l'uomo Orra aveva incontrato la fata l'anno prima. Aveva appena finito il lavoro per la giornata. Posso andare, maestro? Ah, sì. Devo dire che sono molto contento del tuo lavoro, amico mio. Ecco un piccolo premio per te. Prendi questa bottiglia di latte. Forse tua moglie potrà prepararti della crema oggi. Oh, grazie, maestro. Grazie mille. E così l'uomo Orra uscì di casa. Sua moglie e suo figlio sarebbero stati così felici di vedere il latte in più. Fischiettò per la strada, ma presto iniziò a sentirsi stanco. Stanco come non si era mai sentito prima. Arrivare a casa gli sembrava un sogno. L'uomo Orra si sentì così assonnato che sentì di non poter fare più un altro passo e si sdraiò sull'erba e si addormentò profondamente. Fu svegliato dalla musica più dolce che avesse mai sentito. Dove sono? Ciao, finalmente sei sveglio. Alzati, vieni a ballare con noi. L'uomo Orra vide un sacco di piccole persone che danzavano. Vieni, balla con noi. Non so ballare. La musica ti farà ballare. E fu proprio così. La musica era così bella che l'uomo Orra provò una gioia che gli riempì il cuore. E ballò senza nemmeno sapere per quanto tempo. Era come se la musica stesse suonando proprio dentro di lui, danzando attraverso di lui. Poi improvvisamente. È quasi l'alba! Veloci tutti! Tutte le fate scomparvero sottoterra e trascinarono l'uomo Orra con loro. Laggiù se ne stava seduto a vedere le piccole persone che facevano i loro affari, facendo cose che gli sembravano strane. Era strano, ma non una sola volta gli venne in mente di tornare a casa. Poi la fata che aveva incontrato la prima volta gli si avvicinò. Sei stato qui abbastanza. E le erbe che avevi strappato sono ricresciute. Puoi andare ora. Sì, grazie. Ma se dici a qualcuno quello che hai visto qui, riceverai una punizione che non puoi immaginare. Io lo prometto. Non dirò mai a nessuno quello che ho visto qui. E all'improvviso, l'uomo Orra si ritrovò nel punto esatto in cui si era addormentato. La bottiglia di latte era ancora lì. La raccolse e corse a casa. Ma cos'era successo? La sua capanna era cambiata. Uno strano ragazzino stava giocando lì. Andò da sua moglie. Moglie, chi è quello? Tu! Dov'eri? Questo non posso dirlo, ma... Dove sei stato in questi anni? Anni? Il maestro mi ha dato una bottiglia di latte ieri. Ieri? Ti stiamo cercando da 7 lunghi anni! Come hai potuto lasciarci lasciare me e nostro figlio? Nostro figlio? Lui è nostro figlio? Ma ero andato via per... 7 anni? Quindi questa era la loro punizione. Quello che nella loro terra era stata una notte, sono stati 7 anni qui. L'uomo Orra aveva ricevuto la sua punizione. Così spesso diamo per scontate le forze della natura. Non sappiamo se gli alberi, i fiori, le erbe hanno fate nascoste in essi. Ma se siamo crudeli con la natura, saremo puniti. Una punizione che non ci scorderemo facilmente.